Quando ti vorrei parlare, dirti che sto male, cazzo sto male veramente, dirtelo col cuore tra la gente, e invece non faccio niente, rimango indifferente, immobile, a sperare che tu mi voglia un giorno parlare, dirmi qualcosa di buono in tutto questo bene, tutto questo inferno che alla fine ci tradisce, qualcosa poi sparisce, dal fondo della superficie rimane confusa la sensazione che volevo un altro giorno da sposo con te, forse in questo immenso non ci troveremo mai, forse questa volta capirai che le paure sorgono per poi tornare, le paure sorgono per poi lasciare tracce invisibili dentro al cuore, le paure sorgono per poi tornare, nulla rimane come avevamo cambiato, aspettato, modificato, il rapporto che avevamo, quanto torna uguale, perché il tempo riesce a curare tutte le pene, e in fondo non sapevamo qualcosa di buono, di noi sapevamo solo che eravamo due sconosciuti, due teneri amanti, o forse non eravamo neanche questo, eravamo troppo distanti, eravamo forse in fondo al mondo per cercare di capire una soluzione per reagire a tutta la confusione che ci circonda, tutto quello che gira intorno alla penombra resta sempre una candela, un mistero, qualcosa che sembra vero, qualcosa che non lo è affatto, in fondo il mondo che colpisce di più è quello che rimane dentro al profondo, in fondo cerco soltanto una soluzione per tornare a guardare quelle sere senza più vedere quelle cose vere che rimangono nel cuore. Fondo, ciò che torna è ciò che ci circonda, fondo, ciò che torna è ciò che ci circonda. Rimane vero un amico, rimane vero un segreto, rimane vero quello che hai fatto e tutto quanto il resto, svanisce ad un tratto. In fondo, ciò che ci circonda, in fondo, nella penombra, in fondo, non siamo mai stati davvero uniti. Ma dentro il cuore rimane una soluzione, qualcosa per spiegare che non è cambiare la soluzione, qualcosa che restare sia qualcosa di morale, capito e poi sentito col cuore. In fondo, quando ti parlavo, cercavo soltanto di darti un sorriso profondo, qualcosa che ti sollevasse dal buio del mondo. In fondo non capivo ciò che cercavo, cercavo veramente me stesso, cercavo qualcosa, un compromesso con la realtà. Ma ciò che non digerisco, in fondo, è quello che rimane dentro il buco dello stomaco. E tutto quanto passa lentamente, tutte le volte in mezzo alla gente, tutto quanto rimane in fondo, soltanto un buco profondo. Il bisogno che abbiamo di essere capiti e coltivati nella morale, nella speranza di qualcosa che possa cambiare, una stanza più piena, qualcosa, gente, schiena, lavoro, fatica, è tutto ciò che rimane della vita, è tutto ciò che veramente vale, perché quello che cambia è soltanto la nostra mente, soltanto una magia, spesso indifferente, la fantasia viaggia e rimane tutto nel profondo, la fantasia non è soltanto un sogno, la fantasia è una cosa che abbiamo tutti, in fondo ci siamo camuffati quasi tutti. Quasi tutti. Maschere di ghiaccio siamo. Maschere di ghiaccio.